L'ingresso nell'età matrimoniale si era più accentuatamente delineato quando Albertine, parlando di una ragazza dalle maniere non proprio irreprensibili, aveva detto: «Non si riesce neanche a capire se è bella o no, ha un dito di belletto sulla faccia». Infine, pur essendo ancora fanciulla, assumeva già l'atteggiamento di una donna del suo ambiente e del suo rango, dichiarando, se qualcuno faceva delle smorfie, «Non posso guardarlo, mi viene voglia di farne anch'io». Oppure, se ci si divertiva a imitare una persona, «La cosa più divertente è che, se le fate il verso, finite con l'assomigliarle». Tutto ciò apparteneva al tesoro sociale, ma l'ambiente di Albertine non poteva, secondo me, suggerirle di primo ordine, nel senso in cui mio padre, parlando di questo quel collega che non conosceva ancora e di cui gli avevano vantato la grande intelligenza, diceva appunto: «Pare che sia un uomo di prim'ordine». E se lezione, sia pure a proposito del golf, mi sembrò non meno incompatibile con la famiglia Simonet di quanto lo sarebbe stato, unitamente all'aggettivo naturale, con un testo anteriore di qualche secolo ai lavori di Darwin. Lasso di tempo lo trovai ancora più stimolante. Alla fine, l'evidenza di sconvolgimenti a me ignoti, ma idonei ad autorizzare da parte mia le più audaci speranze, mi si fece palmare quando Albertine, col tono soddisfatto di chi sa che la propria opinione ha un certo peso, mi confidò: «A mio giudizio non poteva andar meglio di così. Ritengo che sia la migliore soluzione, la soluzione più elegante». Era una tale novità, era così visibilmente un'alluvione di cui si potevano immaginare le capricciose scorrerie attraverso terreni un tempo sconosciuti, che alle parole «a mio giudizio» io trassi a me Albertine e a «ritengo» la feci sedere sul mio letto. Non è infrequente che, sposando un letterato, donne di scarsa cultura ricevano in dote siffatte locuzioni, e una volta avvenuta la metamorfosi susseguente alla prima notte di nozze, quando vanno a fare le loro visite mostrandosi riservate con le loro ex amiche, ci si accorge con stupore che sono diventate donne se, nel decretare che una certa persona intelligente, fanno sentire le due L della parola intelligente. Ma questo è per l'appunto il segno di un mutamento, e a me sembrava che un mondo intero separasse le nuove locuzioni di Albertine dal vocabolario della ragazza conosciuta fino allora, un vocabolario le cui maggiori audace consistevano nel dire di una persona stravagante «è un bel tipo», oppure, se le proponevano di giocare, «non ho denaro da perdere», o ancora, se un'amica le faceva un rimprovero che le sembrava di non meritare, «ah, sei proprio un fenomeno», frasi dettate in certi casi da una sorta di tradizione borghese non meno antica, o quasi, dello stesso Magnificat, e che una ragazza un po' arrabbiata e certa del proprio buon diritto usa, come si suol dire, con assoluta naturalezza, cioè per averle imparate da sua madre, così come ha imparato a recitare le preghiere o a salutare. Madame Bontemps gliele aveva inculcate tutte, assieme all'odio per gli ebrei e al culto per il nero, con cui si è sempre elegante e in ordine, senza insegnargliele formalmente, ma così come il cinguettio dei cardellini appena nati si modella su quello dei genitori cardellini, in modo che, alla fine, diventavano essi stessi dei veri cardellini. Malgrado tutto, selezione mi parve allogeno e, ritengo, incoraggiante. Albertine non era più la stessa e dunque, forse, non avrebbe agito, non avrebbe reagito nello stesso modo. Non solo non ero più innamorato di lei, ma nemmeno dovevo più preoccuparmi, come a Balbec, di compromettere un'amicizia che, da parte sua, non esisteva più. Non c'era alcun dubbio che le fossi diventato, da parecchio tempo, del tutto indifferente. Mi rendevo conto che non facevo più parte, per lei, della piccola banda cui una volta avevo tanto agognato e in seguito ero stato tanto felice d'unirmi. Inoltre, siccome non emanava più, come a Balbec, un'aura di schiettezza e di bontà, non provavo eccessivi scrupoli. Credo, tuttavia, che a farmi decidere sia stata un'ennesima scoperta filologica. Quando, continuando ad aggiungere nuovi anelli alla catena esterna di discorsi sotto la quale nascondevo il mio intimo desiderio, parlai, ma con Albertine ormai sul bordo del mio letto, di una delle fanciulle della piccola banda, più minuta delle altre, ma per i miei gusti abbastanza graziosa. «Sì», commentò Albertine, «sembra una piccola musmè». Con ogni probabilità, quando avevo conosciuto Albertine, la parola musmè non rientrava nel suo lessico. È verosimile che, se le cose avessero seguito il loro corso normale, lei non l'avrebbe mai imparata e io non ci avrei visto alcun inconveniente, dato che non c'è vocabolo più orripilante. Sentendolo si avverte lo stesso mal di denti di quando ci si infila in bocca un pezzo troppo grosso di gelato. Ma in Albertine, carina com'era, nemmeno musmè riusciva a dispiacermi. In compenso, mi parve il sintomo, se non di un'iniziazione esteriore, almeno di un'interna evoluzione. Disgraziatamente, era giunta l'ora di salutarla, se volevo che tornasse a casa in tempo per il suo pranzo, e di alzarmi a mia volta, senza eccessivo indugio per il mio. Françoise, che lo stava preparando, non gradiva che io mi facessi aspettare a tavola e già doveva sembrarle contrario a un articolo del suo codice che Albertine, in assenza dei miei genitori, si fosse trattenuta così a lungo provocando un generale ritardo. Ma di fronte a Musmè tutte le mie perplessità svanirono e mi affrettai a comunicarle: «Sapete, non soffro per niente il solletico. Potreste farmelo per un'ora e non me ne accorgerei nemmeno». «Davvero?» «Ve lo garantisco». Dovette certo rendersi conto che era, da parte mia, la goffa espressione di un desiderio, perché nel tono di chi vi offre una raccomandazione che non osavate chiedergli, ma di cui ha capito attraverso le vostre parole che avete bisogno, «Volete che provi?» mi chiese con umiltà femminile. «Se non vi dispiace, sarebbe più comodo se vi stendeste sul mio letto». «Così?» «No, venite più dentro». «Ma non vi peso». Non aveva ancora finito questa frase che si aprì la porta e Françoise entrò con una lampada. Albertine fece appena tempo a riguadagnare la sedia. Forse Françoise aveva scelto quel momento per metterci in imbarazzo, dopo essere rimasta ad origliare dietro la porta o addirittura a spiare dal buco della serratura. Ma non era indispensabile supporlo. Poteva darsi che Françoise non avesse nessuno interesse ad accertarsi con gli occhi di ciò che il suo istinto aveva certo fiutato, giacché, a forza di vivere con me e con i miei, il timore e la prudenza, l'attenzione e l'astuzia avevano finito col darle, di noi, quella specie di conoscenza istintiva e quasi divinatoria che il marinaio ha del mare, la selvaggina del cacciatore e della malattia, se non il medico, perlomeno spesso il malato. La quantità di cose che riusciva a sapere era davvero stupefacente, come l'alto livello di certe conoscenze presso gli antichi, considerata la quasi nullità dei mezzi di informazione in loro possesso. Quelli di Françoise non erano più numerosi. Pochi discorsi, appena la ventesima parte della nostra conversazione a tavola, raccolti al volo dal maggiordomo e inesattamente riferiti in cucina. I suoi stessi errori derivavano, come i loro, come le favole cui prestava fede Platone, da una falsa concezione del mondo o da idee preconcette, piuttosto che dall'insufficienza delle risorse materiali. È accaduto così che, ancora ai giorni nostri, le maggiori scoperte sulla vita degli insetti venissero fatte da uno scienziato che non disponeva di nessun laboratorio, di nessuna apparecchiatura. Ma se le difficoltà connesse alla sua posizione di domestica non le avevano impedito di acquisire una scienza indispensabile all'arte che ne costituiva il fine e che consisteva nel metterci a disagio comunicandocene i risultati, la costrizione aveva fatto di più. L'ostacolo in quel caso non si era limitato a non paralizzare il progresso, vi aveva potentemente contribuito. Françoise, certo, non trascurava alcun coadiuvante, per esempio quello della dizione e dell'atteggiamento. Poiché, mentre non credeva mai a quanto le dicevamo e avremmo voluto che credesse, accettava come verità indubitabili le cose più assurde che potesse raccontarle una qualsiasi persona della sua stessa condizione, a patto che fossero tali da urtare le nostre idee, il suo modo di ascoltare le nostre asserzioni testimoniava un'incredulità pari alla convinzione con cui, approfittando del discorso indiretto per gratificarci impunemente delle peggiori ingiurie, ci riferiva, come fosse Vangelo, la storia di una cuoca che le aveva detto d'aver minacciato i padroni e di averne ottenuto 1000 favori trattandoli davanti a tutti da quegli sporcaccioni che erano. Magari, poi, aggiungeva: «Ah, fossi stata io quella padrona, mi sarei offesa!» E noi, a dispetto della nostra originaria mancanza di simpatia per la signora del quarto piano, avevamo un bel alzare le spalle, come a una favola inverosimile, a quel racconto orribilmente esemplare. La narratrice riusciva comunque a imprimergli il tono tagliente e perentorio della più indiscutibile, esasperante affermazione. Ma, soprattutto, come gli scrittori raggiungono spesso un potere di concentrazione da cui un regime di libertà politica o di anarchia letteraria li avrebbe dispensati, quando sono incatenati dalla tirannia di un monarca o di una poetica, dai rigori della prosodia o di una religione di Stato, così Françoise, nell'impossibilità di risponderci in termini espliciti, parlava come Tiresia e avrebbe scritto come Tacito. Tutto ciò che non poteva esprimere direttamente sapeva comprimerlo in una frase cui non potevamo muovere alcun addebito senza accusare noi stessi, e anche meno che in una frase, in un silenzio, nel modo di sistemare un oggetto. Così, quando sbadatamente lasciavo sul mio tavolo, in mezzo ad altre lettere, una certa lettera che avrei dovuto sottrarre alla sua vista, per esempio perché vi si parlava di lei in modo tale da far presumere una qualche malevolenza nei suoi confronti sia da parte del destinatario che dello scrivente, se quella sera, rincasando inquieto, andavo dritto in camera mia, ecco che, in cima alle mie lettere, sovrapposte con cura in una pila perfetta, il documento compromettente mi saltava agli occhi con la stessa immediatezza con cui doveva aver colpito Françoise, la quale l'aveva sistemato sopra ogni altra cosa, quasi a parte, con un'evidenza che era un linguaggio, che possedeva una sua eloquenza e sin dalla soglia mi faceva trasalire come un grido. Françoise eccelleva nel predisporre queste messe in scena, destinate a istruire alla perfezione, lei assente, lo spettatore, che era così già in grado di sapere che lei sapeva tutto quando più tardi sarebbe ricomparsa. Aveva, nel far parlare in questo modo un oggetto inanimato, l'arte, al tempo stesso geniale e paziente, di Irving e di Frédéric Lemaître. In quel momento, mentre teneva sollevata al di sopra di noi la lampada accesa che non lasciava in ombra nessuna delle ancora visibili depressioni scavate nel copriletto dal corpo della fanciulla, Françoise faceva pensare alla giustizia che illumina il crimine. Il viso di Albertine non sfigurava certo a quella luce che scopriva sulle sue guance lo stesso smalto radioso di cui mi ero imbaghito a Balbec. Mentre complessivamente, all'esterno, aveva a volte una sorta di pallore livido, adesso, man mano che la lampada lo rischiarava, quel viso rivelava, al contrario, delle superfici così brillantemente, così uniformemente colorate, così resistenti e così levigate, da poterle paragonare all'incarnato compatto di certi fiori. Sorpreso, tuttavia, dall'ingresso inatteso di Françoise, esclamai: «Come, di già la lampada? Quanta luce, mio Dio!» Il mio scopo era, evidentemente, con la seconda frase, di dissimulare il mio turbamento, con la prima di scusare il mio ritardo. La risposta di Françoise fu di un'ambiguità crudele. «Volete che l'abbasso?» «Passi», mi sussurrò all'orecchio Albertin, lasciandomi incantato della vivacità familiare con cui, trattandomi insieme da maestro e da complice, insinuò quell'affermazione psicologica nel tono interrogativo di un dubbio grammaticale.